Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Conosco anche persone comunque che diciamo fanno questo, diciamo, questo lavoro, dai, fanno i corrieri. E sono ragazzi della tua età? Sì, anche più piccoli alcuni. Cioè, così si vive qua, alcuni giovani la pensano così. Per loro è bello avere i soldi in tasca, avere il motorino, allora si buttano per questa strada. Ho conosciuto ragazzi che me la facevo, cioè me la frequentavo da piccolo e che diciamo adesso stanno in questo giro e il loro atteggiamento è cambiato, cioè, drasticamente proprio. C'è un ragazzo che era molto, cioè, molto socievole, ha percorso questa strada e cioè, è diventato arrogante. È il carattere che diciamo un po' assumi quando percorri questa strada. I miei amici sono quelli là che frequenti nel giro. C'è anche sui motorini, cioè, corrono, a volte insultano anche la gente. I ragazzi camminano per strada con le armi. Si sentono padroni del mondo. Sì. Metamorfosi di un ragazzino a Secondigliano, come a Casal di Principe o nei vari feudi della malavita organizzata campana, succede così che un normale adolescente si trasformi in un bambino soldato arruolato dall'esercito della Camorra. Gianluca ha 16 anni, come il più grande dei 5 feriti in un agguato davanti ad una sala giochi di Secondigliano. Un avvertimento, una punizione dopo una rissa di qualche giorno prima tra le ultime leve dei clan. Hanno tra i 12 e i 16 anni, sono tutt'uno con quei motorini su cui sfrecciano nelle periferie criminali. Come altri loro coetanei, più che la scuola, conoscono la strada e le sue leggi. Mettono così in conto che fatti come i 40 colpi che si sono visti sparare contro sono cose che possono capitare a chi vive per strada, a chi sta nel giro, come dicono loro, a chi è già vedetta o corriere di droga. Ed è per questo che da queste parti, nota Don Francesco Minervini, uno dei parroci di questa difficile periferia nord di Napoli, non possiamo permetterci il lusso di avere le scuole chiuse. Questo è il sistema, ormai si confondono le realtà, ormai è normale che un ragazzo nel momento in cui non va a scuola viene assoldato da questo sistema economico, ma vedo che in questi ultimi 15-20 giorni, almeno come mi è sembrato di vedere per le strade, è ritornato ugualmente il contrabbando di sigarette, quindi penso che anche l'economia camorrista forse sta vivendo pure loro una crisi economica. Qua entra nel sistema economico che più da sicurezza e più viene protetto da quelle che possono essere anche le situazioni future di precariato. Purtroppo è così. Ecco perché la scuola è la presenza dello Stato, la Repubblica italiana è rappresentata nel sud Italia, in questi territori, dalla scuola pubblica. L'abbandono della scuola da parte dei minori spinge i minori stessi alla devianza. Basta passare in queste mattinate, passare per le strade di questi quartieri e vedere i minorenni che stanno negli angoli, sui motorini. E una volta, due volte, adesso a volte vengono subito avvicinati, e prima per scherzo, poi per gioco. E poi certamente, come tutti i ragazzi di questo mondo, quando hanno qualcosina in tasca, a scarpe firmate o altre cose, sono attratti. Nelle terre di Gomorra, a volte a 15 anni, i ragazzini sono già piccoli boss e di fatto, a volte, si comportano come dei veri criminali, nota con amarezza Don Fulvio D'Angelo, parroco a Secondigliano. Il quartiere in questo momento è, da una parte, è sgomento, diciamo, questo era l'ultimo limite che era rimasto, no? Non toccare i bambini, perché quello di non toccare le donne ormai era stato ampiamente superato. Esatto. Però anche questo è stato superato, quindi certamente c'è un sentimento proprio di sgomento, di smarrimento, però c'è anche la consapevolezza che purtroppo una cosa di questo genere era nell'aria, perché in queste zone, ahimè, la criminalità la fa da padrona, per cui... Quindi diciamo, lei dice era nell'aria, perché si vede che ci sono tanti ragazzini già nelle grinfie della Camorra. Esattamente, ci sono tante baby gang, anche bande di rapinatori fatte da costituite da persone giovanissime, che poi sono, come dire, delle realtà che, essendo persone giovani, vogliono emergere, no, nel panorama criminale, per cui sono anche estremamente violente, non, non si fermano davanti a niente. Impressiona un po' anche il linguaggio di molti ragazzini molto giovani, ma che vivono fin da subito, fin da in un'età molto tenera, una consapevolezza, no, delle armi, della possibilità di restare coinvolti nelle sparatorie. Ragazzini che dicono di vivere per strada. Le ascolto spesso, perché poi nella nostra zona, una zona, diciamo, è la zona antica, no, di secondo piano, il cuore proprio del quartiere, ci sono situazioni di questo genere, di ragazzini che vivono praticamente per strada e quindi dalla strada imparano tutto quello che c'è da imparare. Io ho sentito proprio molti di loro dire, appunto, noi che viviamo mezza una chiazza, appunto, in mezzo alla piazza, ecco, sappiamo che tutto questo ci può capitare. Certo, sì, ma c'è questa consapevolezza, ma è la triste realtà, purtroppo. Ma questo dipende molto poi dalle famiglie di appartenenza, ovviamente, perché poi sono famiglie dove si mettono al mondo i figli, però poi non è che ci si occupa troppo della loro educazione. E poi ci sono proprio quelle di famiglie camorristiche, quelle chiaramente imparano quella logica con il latte, la assumono con il latte. A lei è mai capitato di vedere atteggiamenti da guappo, diciamo così, di qualche ragazzino? Sì, molto spesso, e noi interveniamo cercando proprio di far comprendere che questi non sono atteggiamenti che possono essere da una parte tollerati, vogliono prevaricare sugli altri, cercano di non rispettare le regole anche del gioco, no? Di farle a modo loro. E ecco perché noi non li lasciamo mai soli i bambini, c'è sempre un operatore con loro che ha proprio questo compito, no? Di educarli o rieducarli al rispetto delle regole, al rispetto degli altri, al rispetto della vita propria, della vita altrui, al rispetto del territorio, che poi a volte questi ragazzini sono anche devastatori, no? Per cui devastano, che ne so, gli arredi urbani, oppure se ci sono alberi magari li bruciano, cioè, quindi noi cerchiamo proprio di riportarli per quello che è possibile ad un vivere civile. Come rispondono? Perché poi il più delle volte si assiste anche a scene di ragazzini che non accettano, diciamo, il rimprovero. Guarda, noi siamo su questo fermissimi: chi non accetta deve lasciare la parrocchia, non può stare nel gruppo. Questo è un fatto su cui noi non veniamo mai meno. Quindi alcuni accettano, solo la maggioranza, e poi c'è chi non accetta e lascia il gruppo. Per esempio, sono alcuni dei ragazzini che sono molto violenti anche a scuola. Allora noi abbiamo impostato tutto un programma di recupero per loro, e con alcuni veramente abbiamo ottenuto dei risultati veramente straordinari, perché c'erano alcuni che erano estremamente violenti e di difficile gestione anche nella loro scuola, e sono veramente cambiati. Ma violenti con i loro compagni, con gli insegnanti? Violenti con in i che loro modo? Compagni, violenti con i professori, violenti nei loro atteggiamenti. E siamo riusciti veramente, sia con il ragionamento, sia con alcune attività appositamente pensate per loro, sia anche facendo venire fuori proprio tutta la rabbia che questi ragazzi hanno dentro, siamo riusciti anche a recuperarli alcuni. Però dipende molto anche poi dall'aiuto o meno delle famiglie, perché dove questo aiuto delle famiglie non c'è, allora è molto più difficile. E con alcuni abbiamo dovuto dire che purtroppo non c'era possibilità di intesa tra noi e loro, e li abbiamo invitati a lasciare la comunità. E c'è poco da fare, perché poi non possiamo permettere di far entrare la strada, quella logica, all'interno delle nostre attività. Sono ragazzi violenti, picchiano gli altri una volta, due volte, tre volte, hanno degli atteggiamenti che chiaramente loro assumono dalla famiglia, perché per loro essere violenti significa imporsi sugli altri, quindi è un valore, no? Allora, se noi riusciamo a fargli capire che non è un valore, è bene, insomma, una cosa buona. E quando però non ci riusciamo, cioè il fallimento educativo è sempre possibile, quindi certo, lo dobbiamo accettare, ma Il problema non è tanto dei ragazzi, però è l'ambiente familiare in cui vivono, perché noi a volte riusciamo a coinvolgere le famiglie e allora ripeto, il discorso è molto più semplice perché allora c'è un percorso che facciamo insieme alle famiglie, però non è che tutte le famiglie si fanno coinvolgere e allora quando questo coinvolgimento, questo soprattutto familiare, non avviene e allora diventa molto ma molto più difficile, ecco, se non quasi impossibile. Immagino. Don Fulvio, spesso il problema è che dei ragazzini giovanissimi, come pare sia successo anche con questi che sono stati feriti in questo agguato, vengono poi utilizzati anche come corrieri di droga, come vengono utilizzati dalla stessa malavita organizzata. Sì, ci scontriamo però quando si è a questi livelli, diciamo che già il discorso è andato molto in là. Perché ma non si tratta più del ragazzino violento che può avere anche dei problemi e che può essere in qualche modo aiutato, e lì si entra poi in un circuito criminale vero e proprio, dove si altera proprio la percezione dei valori, e lì poi diventa un discorso molto ma molto più complicato, in cui francamente è molto difficile riuscire ad operare, perché chi entra in queste realtà come spacciatore o come trasportatore di armi o di droga, poi insomma ha già fatto un passo in più, cioè siamo a un livello diverso dal semplice bullismo che può esserci nella nostra realtà, e lì si tratta di piccoli criminali veri e propri. Storielle. Storiacce. Con l'agguato ai 5 ragazzini di Secondigliano, anche l'ultimo baluardo è stato superato. Ogni codice è crollato. Ora la camorra non rispetta più neanche i bambini. E spesso, poco più che bambini, sono anche i killer che sparano. È il quadro allarmante di uno dei PM del pool antimafia di Napoli, Stefania Cataldi. È un'eredità della faida di Scampia. Con la faida si sono sovvertite quelle che erano le regole, se di regole si può parlare, della criminalità organizzata, ossia innanzitutto non uccidere in maniera così eclatante donne, invece lì ne sono state uccise due, e non coinvolgere insomma, in azioni criminali da protagonisti dei minori, ed è successo invece anche questo, perché nell'omicidio di Carmela Attrice erano dei ragazzini molto giovani, anche un minorenne è stato coinvolto. Questo ha fatto saltare, diciamo, anche degli equilibri. Poi da un altro lato l'arresto dei capi, più si arrestano i ranghi, diciamo i livelli alti della criminalità organizzata, è ovvio che più si abbassa l'età media del ragazzo che si avvicina a queste realtà criminali, non solo di criminalità ordinaria, quindi criminalità micro, quella che si definisce microcriminalità, ma anche di criminalità organizzata, perché poi da noi è tutto riconducibile e gestito dalla criminalità organizzata, qualunque attività. In questo caso mi sembra di capire che è tutto riconducibile intorno al mondo della droga, quindi corrieri di droga, insomma, vengono utilizzati anche i ragazzini. Guardi, sulle indagini in questione sono proprio in corso, ma sicuramente la cosa che mi inquieta, ed è questo il motivo per cui io, che notoriamente insomma non rilascio interviste o che sono voluta uscire anche in maniera tra virgolette forte, quello che mi inquieta è il silenzio su una emergenza che è quella sui minori a Napoli forte, perché quando noi li vediamo coinvolti da protagonisti e da vittime in contesti che sono di violenza di tipo camorristico, ebbene non può esserci solo la risposta repressiva o la risposta dello Stato solo in termini penali. Anche perché i ragazzini è facile anche abbindolarli con ben poco. Esatto, è facile. Allora, innanzitutto sono dei ragazzi che hanno pochissimo, molto spesso nulla. A me è capitato di andare sugli omicidi, quando vado a fare i sopralluoghi, i bambini 4-5 anni che sono per strada e che guardano i cadaveri straziati, quindi sono ragazzini che hanno ben poco e quindi, come lei giustamente diceva, o hanno una tradizione familiare a cui è facile ispirarsi o possono essere allettati con molto poco. Basta anche un cellulare, sì, sì, sì, sì. No, ma sono anche ben stipendiati, le vedette, i pali, che sono giovanissimi, hanno anche degli stipendi di 750, 800, 900 euro, che voglio dire, sono soldi per una famiglia di Secondigliano. E soprattutto per dei ragazzini così giovani. Sì. È secondo lei, dottoressa, un modo anche di sentire, di aiutare la famiglia in una, così, nella gestione economica? Certo, è anche un modo, certo si ragiona così, ma a Secondigliano, e questo ripeto, sono dei processi che l'hanno detto, c'è tutto un sistema che gira intorno alla droga, c'è la signora che tiene la droga in casa, che la taglia, che passa la bustina, ed è una mamma di famiglia che così mantiene la sua famiglia. E quindi, insomma, questa sparatoria non vi sorprende più di tanto, perché l'uso dei ragazzini mi sembra di capire. No, ci sorprende molto il fatto che ci poteva essere una strage di 5 ragazzini, questo ci colpisce, non può non colpirci, perché certo, assolutamente non c'è assuefazione a questo da parte né delle forze dell'ordine né dell'istituzione procura, voglio dire, però riteniamo che non possiamo più essere solo noi la risposta a questo. Di sicuro ogni giorno lavorano per cercare di togliere i ragazzini dalla strada e dalle grinfie della malavita i sacerdoti in prima linea di questa periferia nord di Napoli, sacerdoti come Don Fulvio, parroco di Secondigliano. Lasciano abbindolare con poco, perché queste poi sono, cioè, le organizzazioni criminali hanno grande disponibilità di denaro, quindi chi appartiene a queste organizzazioni sfoggia, no, tutto il suo potere anche economico. Questi ragazzini possono poi anche essere utilizzati per queste attività, sfruttando il fatto che non essendo punibili. Quando entrano in queste organizzazioni, in qualche modo è come se subissero poi una specie di lavaggio del cervello, cioè una rieducazione al male. Cioè, non sono più dei ragazzini, sono dei piccoli criminali. Questo bisogna riconoscerlo, bisogna accettarlo, è così, perché poi in queste organizzazioni comunque ci sono, come dire, bisogna passare, diciamo, degli esami, no? Lei appunto era in parrocchia anche nei giorni della guerra proprio di, certo, Secondigliano. Purtroppo sì. Quei giorni come sono stati? Quelli sono stati giorni veramente difficili, terribili per tanti aspetti, per tante vite che si sono stroncate, anche di tanti giovani che alcuni conoscevo bene e che purtroppo hanno pagato con la vita poi queste scelte che loro hanno fatto di malavita, di realtà criminali, senza contare poi le persone che magari sono state uccise senza centrare niente, perché solo perché si sono trovate al posto sbagliato e al momento sbagliato. Perché io poi dico sempre, vedi, che le prime vittime della camorra sono i camorristi stessi, perché la camorra è un sistema di morte che tritura ogni cosa, anche i suoi appartenenti. Il camorrista, se gli va bene, finisce in galera, se gli va male, muore ammazzato giovane. Purtroppo la situazione non è che è cambiata molto, insomma, anzi per certi aspetti si è aggravata, perché poi si sono sviluppate tutte questi gruppi criminali, diciamo cani sciolti, fatti da ragazzi molto giovani, che sono ancora più pericolosi, perché poi non hanno più quelle regole, per quanto aberranti, che comunque avevano grossi capi camorristi. Oggi grossi capi qui non è che ce ne sono, però c'è una realtà diffusa di bande polverizzate di stampo camorristico che sono estremamente aggressive e pericolose. Con una facilità all'uso delle armi forse ancora sicuramente, maggiore? Sicuramente. Qua si dice sempre che c'è la omertà, che la gente non collabora, ma la verità è che la società civile qui non è libera di esprimersi, perché manca la libertà essenziale, che è quella della propria sicurezza personale. Allora chiaramente il cittadino comune che cosa può opporre ai proiettili? Parole, ma noi usiamo le parole, loro usano i proiettili, è una società civile ostaggio praticamente della criminalità. La maggioranza purtroppo è costretta al silenzio dalla paura. Don Fulvio, lei ha visto il film Gomorra? In parte, non completamente, perché quelle sono realtà che noi viviamo ogni giorno E allora è vero che quella è la realtà, però forse manca un po' di speranza. Però nel vedere le immagini dei due ragazzini che appunto usano le armi, minacciano e poi finiscono loro stessi vittime. Ma questa è la realtà, cioè per noi, diciamo, per chi va a vedere il film magari è fiction, no? Però per noi è vita di tutti i giorni, sono cose buone per chi magari non è addentro a queste cose e lo può aiutare a capire certe realtà. Per noi purtroppo non è finzione cinematografica, ma è triste realtà. Noi ci siamo dentro. Don Fulvio, lei è stato a Pompei quando è venuto il Papa? Quella giornata no, sono stato quando è venuto il Papa, sì, a Napoli. Il Papa non ha fatto alcun riferimento a questa guerra di Camorra che c'è però, a Napoli. Però il Papa l'aveva fatto molto forte e molto chiaro quando è venuto a Napoli precedentemente, è stata usata parole molto chiare, insomma, a me bastano quelle.